Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, questa è Radio Plaza. Buonasera da Radio Plaza. Anna non si sente tanto bene. Io mi sento benissimo, anche non si sente la voce. Neanche io la sento la voce. Vabbè, andiamo avanti. Va bene, ci sono, ora ci sono, ci sono. Eccoci, eccoci con Radio Plaza per la Gira Zapatista. Ci siamo arrivati, sono arrivate già qua in Campania. Alle prime donne arrivate in Campania, la prima delegazione zapatista fatta solo di donne, domani arriveranno gli altri, vi daremo conto. Intanto partiamo con i titoli. Il racconto della settimana zapatista, calendario degli incontri tematici. Cosa succederà domani? Presentazione del primo appuntamento. Spazio alla rubrica di arte e cultura, altre strade. Suggestioni e suggerimenti dall'esperto che ci piace. Le favole del subcomandante Marcos, un racconto al giorno prima di dormire. Va bene, iniziamo quindi col primo titolo, che è la presentazione della settimana zapatista, cioè la settimana in cui gireranno per varie località della Campania gli zapatisti arrivati dal Messico un paio di mesi fa ormai in Europa. Adesso sono qui, sono in Campania e si partirà subito domani, 22 ottobre, domani pomeriggio, con un incontro di Mujeres en Lucha, Donne in Lotte, a Marigliano. E per informazioni si può contattare il numero 389-174-7900. Passiamo al 23 ottobre di mattina, Terra Nostra autogestita, che si trova a Casoria. Ci sarà questo incontro sul tema terra e libertà, sovranità alimentare e agroecologia. E poi nel primissimo pomeriggio ancora Radio Plaza, che trasmetterà live Glocalizzala, viaggio tra le radio comunitarie nel mondo. Ok, collegatevi quindi sul sito collettivoutopia.noblogs.org dalle 14.30 più o meno per questa puntata speciale in diretta da Terra Nostra, Casoria. E a seguire, sempre venerdì, sempre il 23 ottobre pomeriggio, a Terra Nostra autogestita, l'incontro con le realtà cittadine in lotta. Siamo al 24, che sarebbe domenica 24 domenica mattina, a Scisciano in provincia di Napoli. Ci sarà l'incontro con le scuole di italiano per stranieri. E poi il pomeriggio a Scampia per parlare di educazione tra resistenze ed autonomia. Passiamo al 25 di ottobre, gli zapatisti incontrano le comunità migranti di Castelvolturno, quindi l'appuntamento è a Castelvolturno di mattina. E invece poi di pomeriggio ci si sposta a Caserta per un incontro con le realtà sociali di Caserta. Bene, passiamo al 26 ottobre di mattina c'è un incontro con le realtà di Chiaiano e Scampia e il tema è resistenza e devastazione ambientale. Siamo ancora al 26 ottobre, pomeriggio, incontro con i movimenti in difesa della terra e con i disoccupati di Acerra. Arriviamo quindi al 27 ottobre, nel pomeriggio, incontro con le realtà resistenti del territorio nolano. E poi ricordiamo ogni sera da oggi per tutte le sere alle 21.30 la diretta radiofonica di Radio Plaza per la Gira Zapatista, da seguire live in diretta in streaming su collettivoutopia.noblogs.org. Il giornale Radio Plaza, gira, gira, gira. Radio Plaza racconta la Gira Zapatista. E allora Radio Plaza, radio, musica, partiamo subito con il primo brano di questa puntata. Scum è il brano che immagina il potere in mano alle donne. Difatti il titolo è ispirato al trattato politico ultrafemminista Scum Manifesto del 1968 dell'attivista Valerie Solanas, che fu condannata anche per il tentato omicidio a Andy Warhol, ma questa è un'altra storia. E lo stesso testo del brano è un passaggio fondamentale dell'opera. E allora ascoltiamolo. Ora, Scum. We'll be right back. questa società, per bene che ci vada, la vita è una noia sconfinata. In questa società nulla, assolutamente nulla riguarda le donne. Dunque, a tutte le donne che non hanno paura né delle responsabilità né delle emozioni sconvolgenti, non rimane che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione completa e distruggere il sesso maschile. Allora Radio Plaza anche questa volta è ripartita, è partita alla grande questa puntata. Cosa abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato il brano Scum, erano gli Aria, per chi non li avesse riconosciuti, dall'album Maledetti del 1976, e quella era la voce spiazzante magistrale di Demetrio Stratos. Ok, passiamo alla seconda rubrica, cosa si farà domani? E domani allora si entra nel vivo di questo incontro con la comunità, con il gruppo Zapatista che sta girando per l'Italia, che è arrivato oggi a Napoli. Domani si comincia con le donne in lotta. Parte domani il primo incontro con la delegazione Zapatista. Si tratta del primo gruppo arrivato in Campania, un gruppo di sole donne con le quali ci si confronterà sui temi della resistenza declinata al femminile. L'incontro si terrà a Marigliano, in provincia di Napoli, nel pomeriggio, e per ogni informazione ricordate di andare a vedere sul volantino tutte le informazioni che possono essere utili. Radio Plaza. questo era il secondo coro delle Lavandaie della nuova compagnia di canto popolare, tratto dall'opera di Roberto De Simone, il melodramma di Roberto De Simone, La gatta Cenerentola. Abbiamo sentito Gatta Cenerentola del 1976, io avevo un anno. Stavo dicendo, infatti, quanto te più o meno. Sì, abbiamo sentito questa una fedelissima tamurriata che accompagna il racconto del sogno erotico di Cenerentola che conquista il re. Io però sono più giovane. Ed è proprio questo aspetto sociopolitico della favola di Cenerentola che con De Simone esplode completamente. Essa è la serva che diventa regina e in lei il popolo sottomesso e privo di potere si identifica. Nelle parole di Roberto De Simone, Cenerentola realizza il desiderio di avere un capo che non sia la negativa figura del potere maschile, che storicamente è sempre stata l'espressione della guerra, della violenza e della repressione, di cui tutti i popoli hanno sempre dovuto subire l'amara esperienza. Ed è arrivato quindi il momento delle suggestioni e dei suggerimenti dell'unico tuttologo che ci piace. Da oggi e per tutti i prossimi appuntamenti non perdetevi lo spazio di arte e cultura Altre Strade, a cura di Richard Madoc. Buonasera a tutte e a tutti e a tutte, benvenuti in questa rubrica sedicentemente culturale. La prima puntata parleremo di anticapitalismo e resistenza e vi sottoporrò alcune opere. La prima che mi è venuta in mente è il libro Vocazione minoritaria di Goffredo Fofi, un grandissimo, che non ama definirsi intellettuale. In vita sua Goffredo ha accumulato una serie di esperienze e ha avuto l'abilità di circondarsi di ottimi maestri che... queste memorie sono in questo libro, in cui ci sprona a essere cune di contraddizione contro il pensiero dominante. Goffredo, che in questo momento è nel cinema con un documentario che si chiama Le Sole al Vento, che o diventa, non ricordo, che vi consiglio di recuperare perché sarà pochissimo. Un altro libro che secondo me è stato capitale nelle esperienze di movimenti di protesta contro il capitalismo e in particolare contro la globalizzazione neoliberista è No Logo di Naomi Klein, un manifesto contro il consumismo che molti hanno letto ma non abbastanza, e che è stato un libro fondante per tutto il movimento di Seattle, che poi è naufragato, diciamo, è stato represso nel 2001 a Genova, e che è anche importante ad esempio per altre opere poi di culto come il Fight Club famoso. Un altro libro che sentirei di consigliare perché è terribilmente attuale, importantissimo, è L'uomo a una dimensione di Marcuse. È un libro estremamente scorrevole per gli argomenti di cui tratta e che purtroppo mi sembra i neoindustriali, i neocapitalisti e quindi in qualche modo quello che qualcuno considerava il neofascismo ha completamente metabolizzato e imparato, mentre noi forse abbiamo un po' dimenticato. Un testo del 68 che però sembra scritto per noi oggi. Le ultime due opere che volevo sottoporvi sono una canzone di Giorgio Canali che si chiama Lettera al compagno Lattos e si rivolge a comandante Valerio, l'uomo che il partigiano che fece l'esecuzione di Mussolini materialmente. È una canzone dedicata alla resistenza, scritta per il 25 aprile, che però non venne eseguita perché contiene un paio di bestemmie. È una canzone molto interessante secondo me, al di là di questa provocazione pure utile, perché sprona in qualche modo a recuperare quel treno perso che è stato quello della conciliazione di questa guerra civile e che non ha sanato le ferite ma anzi ha fatto sì che poi noi conviviamo ancora con un rimosso che è quello del fascismo che non abbiamo mai superato o metabolizzato a differenza di altri paesi e che purtroppo continua a riproporsi. Infine vi consiglierei una graphic novel francese che potete trovare pubblicata da Becco Giallo, se non erro, che si chiama Garudo in tempo di pace. È molto bella perché parla di volontariato, all'estero e di come questo sia una forma di impegno e di resistenza civile che deriva dalla consapevolezza che siamo interdipendenti, i nostri destini sono legati al di là delle differenze culturali e geografiche che possono separarci, e come l'impegno vada sempre calato nel pratico per un discorso di coerenza e anche di benessere. L'etica come via per perseguire la felicità, non intesa in modo privato, quindi indipendente, ma appunto collettiva, pubblica. E con questa vi saluto, a domani. Solo senza dirmi di più, mi ha messo in mano una spada senza insegnarmi le mosse, mi ha messo in guardia dal nemico senza dirmi chi fosse, mi ha messo dentro una scuola e ha detto adesso impara ad abbassare lo sguardo e a non avere pietà, mi ha dato il fiuto del cane, la coda del gatto, la corona del re e il cappello del matto, mi ha messo in una famiglia e ha detto affari tuoi, adesso in questo casino prova a capire chi sei, però ha messo un diamante dentro il mio cuore che brilla quando lo espongo al sole, però hai messo una bomba dentro al mio cuore, che è sempre innescata, che è pronta per scoppiare, mi hai messo in tasca tre carte e ha detto adesso tira, quello che viene viene e come gira gira, mi hai dato tempo una vita per ritrovare l'uscita, mi sono distratto a un certo punto non l'ho più cercata e mi hai mollato nel traffico senza indicazioni e proprio a me vengono a chiedere le informazioni e adesso unisci i puntini dall'uno all'infinito, questa è una festa per la quale non serve l'invito, però hai messo un diamante dentro al mio cuore che brilla quando lo espongo al sole, però hai messo un diamante dentro al mio cuore. Che brilla, che brilla, che brilla, che brilla, che brilla. Però hai messo un diamante dentro al mio cuore. Che brilla quando lo espongo al sole, però hai messo una bomba dentro al mio cuore. Che è pronta per scoppiare. I pesci affogano, gli uccelli cadono. Il buio illumina, la foca rumina. La scimmia semina, l'aquila pigola. Il lupo miagola, il ragno scivola, le tigri brucano, le serpi saltano, i cani belano, il muro è morbido, è tutto in ordine, è tutto in ordine, è tutto in ordine, è tutto in ordine, però hai messo un diamante dentro al mio cuore, che brilla quando lo espongo al sole, però hai messo una bomba dentro al mio cuore. Che brilla, che brilla, che brilla, che brilla. E allora piangi, piangi forte, ridi ancora più forte, così che scoppi di vita, così che scacci la morte. E guarda sempre in faccia il mondo e non avere paura di niente, non abbassare lo sguardo di fronte alla gente. Potranno dirti bugie, potranno prenderti in giro, è una partita che si gioca all'ultimo respiro. E se ti incalzi, incalzati come è giusto che sia, con tutta la potenza, con tutta la fantasia. Perché hai messo un diamante dentro al mio cuore, che brilla quando lo espongo al sole, e hai messo una bomba dentro al mio cuore, che è sempre innescata, che è pronta per scoppiare, però hai messo un diamante dentro al mio cuore, che brilla quando lo espongo al sole, però hai messo un diamante dentro al mio cuore, che brilla, che brilla, che brilla, che brilla, pancia di femmina, mani di femmina, occhi di femmina, occhi di femmina, pelle di femmina, pelle di femmina. È tutto in ordine, è tutto in ordine. È tutto in ordine, è tutto in ordine. È tutto in ordine. Che brilla, che brilla, che brilla, che brilla, che brilla. Radio Plaza! E questo qua era Jovanotti col brano Che brilla dall'album doppio, dal doppio CD Ora del 2011. Ricordiamo che questa è Radio Plaza, che questa è la puntata che c'è ogni sera da stasera fino al prossimo mercoledì alle 21:30, per accompagnare la gira zapatista che è appena arrivata in Campania. Sì, ogni giorno racconteremo quello che è successo durante la giornata, chi hanno incontrato le zapatiste al momento, gli zapatisti da domani, e chi ha partecipato, chi ha parlato, chi ha urlato, chi ha suonato. Ma ora è un altro momento. Un'altra... Che ora è? È l'ora della favola della buona lotta. La favola della buona lotta. E quindi andiamo ad ascoltare una favola dalle Fiabe Resistenti del 2014. Nel libro si legge: pensiamo con Italo Calvino che le fiabe siano vere e capaci di generare mondi. Ascoltiamo quindi da Fiabe Resistenti uno dei racconti del subcomandante Marcos dal Chiapas per tutte e tutti. Questa è la storia degli altri, racconti del subcomandante Marcos, Fiabe Resistenti 2014, e la voce è quella di Salvatore Giancardi. Radio Plaza! La storia degli altri. Raccontano i più vecchi, tra i vecchi che hanno popolato queste terre, che gli dei più grandi, quelli che fecero nascere il mondo, non la pensavano tutti allo stesso modo. Ossia, non avevano lo stesso pensiero, ma ognuno aveva un pensiero proprio e tra di loro si rispettavano e si ascoltavano. Dicono i più vecchi tra i vecchi che era proprio così. Se non fosse stato così, il mondo non sarebbe mai nato, perché i primi dei avrebbero passato il tempo a litigare, visto che erano così diversi i pensieri che sentivano. Dicono i più vecchi tra i vecchi che per questo il mondo nacque con tanti colori e forme, tanti quanti erano i pensieri che avevano gli dei più grandi, i primi. 7 erano gli dei più grandi e 7 erano i pensieri che aveva ognuno di loro, e 7 volte 7 sono le forme e i colori con cui vestirono il mondo. Mi dice il vecchio Antonio che ha chiesto ai più vecchi tra i vecchi come fecero i primi dei a mettersi d'accordo e parlarsi, se erano così diversi i pensieri che sentivano. I vecchi più vecchi gli hanno risposto, mi dice il vecchio Antonio, che ci fu un'assemblea dei 7 dei insieme ai loro 7 pensieri diversi e che in questa assemblea raggiunsero un accordo. Dice il vecchio Antonio che i più vecchi tra i vecchi dicono che questa assemblea dei primi dei, quelli che fecero nascere il mondo, fu molto tempo prima del passato, che fu proprio nel tempo in cui non c'era ancora tempo. E dicono che in questa assemblea ognuno dei primi grandi dei dette la sua parola e tutti dissero: il pensiero che sento è diverso da quello degli altri. Allora gli dei restarono zitti, perché si resero conto che quando ognuno diceva gli altri, stava parlando di altri differenti. Dopo essere stati in silenzio per un po', i primi dei si resero conto che avevano già raggiunto un primo accordo, ed era che c'erano altri e che questi altri erano diversi da quell'uno che ognuno era. Così, il primo accordo che raggiunsero i primi dei fu di riconoscere la differenza e di accettare l'esistenza dell'altro. E dato che erano tutti dei e tutti primi, non restava loro altro che accettare che nessuno valeva più o meno degli altri. Insomma, che erano differenti e così dovevano camminare. Dopo questo primo accordo, continuò la discussione, perché una cosa è riconoscere che ci sono altri diversi da noi e un'altra molto diversa, rispettarli. Così andarono avanti parecchio, parlando e discutendo di come ognuno era diverso dagli altri. E non si preoccuparono di attardarsi in questa discussione, perché tanto non esisteva ancora il tempo. Poi restarono tutti in silenzio. E ognuno parlò della propria differenza. E ognuno degli altri dei che ascoltavano si rese conto che, ascoltando e conoscendo le differenze dell'altro, meglio e di più conosceva se stesso in ciò in cui era diverso. Allora furono tutti molto contenti e si lanciarono in un ballo sfrenato e fecero molto tardi, ma non era importante, perché tanto in quel tempo non esisteva ancora il tempo. Dopo il ballo, gli dei raggiunsero l'accordo che è bello che ci siano altri e che siano diversi e che bisogna ascoltarli per conoscere meglio se stessi. Dopo questo accordo andarono a dormire, perché erano molto stanchi, avendo ballato tanto. Di parlare però non si erano stancati, perché di per sé erano portati per le chiacchiere questi primi dei, quelli che fecero nascere il mondo e che stavano appena imparando ad ascoltare. Non mi sono accorto di quando se n'è andato il vecchio Antonio. Il mio amor dorme già, e del mozzicone di una candela rimane solo una macchia deforme di paraffina. Sopra di me, il cielo inizia a diluire il suo nero nella luce della mattina. Faccio partire la musica. È evidente che questa non era la voce di Salvatore Giancardi, ma bensì di Chiara Giancardi. Vabbè, può capitare. Che dai. Ha raccontato la storia degli altri. Bene. Ci si confonde. Soprattutto per questa primissima puntata di questo appuntamento così speciale. Beh, di Radio Plaza. Io penso che sia andata molto bene. Questa primissima puntata, dicevamo, lo ricordiamo ancora una volta. Di cosa abbiamo detto? Abbiamo detto di cosa? Del radiogiornale di Radio Plaza. Dal titolo... Gira, gira, gira, gira, gira. La gira zapatista in Campania. Ricordiamo non che non sapevo questo, proprio cosa inventarsi. Questo appuntamento tornerà tutte le sere fino a mercoledì alle 21.30 e da domani sarà arricchito anche dalle voci in diretta degli appuntamenti, degli incontri, degli eventi che si terranno direttamente con la delegazione zapatista. Molto bene, quindi ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato a questa edizione speciale, come tutte le edizioni speciali sono quelle di Radio Plaza. Vi diamo appuntamento. Ma Radio Plaza abbiamo detto che cos'è, sì. Perché Radio dirlo ora? Perché dirlo, lo diciamo domani? Ma anche un ok, altro. Allora vi sintonizzatevi, diamo appuntamento a domani. Sintonizzatevi su collettivoutopia.noblogs.org per seguire la diretta domani sera dalle 21.30. E da domani insieme a noi anche i rappresentanti delle varie realtà che hanno contribuito ad organizzare l'accoglienza della gira zapatista. Sì, domani in sentiremo, sì, domani sentiremo le voci di chi ha assistito all'incontro Donne in Lotta. Domani sarà il momento delle donne in lotta, adesso invece è il momento della musica. Sì, la musica che è sempre ben presente è a Radio Plaza. Ennio Morricone arriva in questo stralcio di finale e ci andiamo ad ascoltare Canto a mia terra, che è tratto dalla colonna sonora del film Il Mercenario del 1968, diretto da Sergio Corbucci. Una piccola chicca, diciamo, riguardo a questo brano: il motivo sarà citato nel 2004 da Quentin Tarantino nel film Kill Bill volume 2. E allora buon ascolto e buonanotte. Radio Plaza. Canción para mi tierra, donde el orgullo de sus hijos se sintió cuando la conquistó con sangre tan valiente esta raza inmensa que la vio nacer. La libertad le es el grito del guerrero para siempre conquistar. Así nació la ley. La gran tierra de la flor y del amor. Es mi linda y dulce tierra mexicana, donde cayeron tantos héroes con valor cuando la conquistaron.